sciocca che sono, ci credo davvero. La gente sorride di me, io credo alle stelle, io credo alla luna, e ansiosa domando così: chissà se qualcuno vuol contare le stelle con me, son più belle stasera nel cielo. Chissà se qualcuno vuol sentire le frasi d'amore che il mio cuore vuol dire a un altro cuore. Se non c'è più nessuno, non importa se sola sarò, alle stelle, alla luna, il mio amore canterò. Perché se guardo nel cielo le stelle, la luna, c'è sempre qualcuno. Stelle, alla luna, il mio amor canterà.